You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti negli anni 60, dove le coppie miste erano una novità e per alcuni anche un problema, dove in America si discuteva di integrazione razziale, in Italia il problema ancora non esisteva. Il film del 67, Indovina chi viene a cena, è la nostra scusa ufficiale per parlare di pregiudizi razziali, integrazione fa cultura, insomma nuovi italiani, magari persone nate all'estero ma da decenni in Italia, oppure nati in Italia da genitori stranieri. Indovinate chi viene a cena stasera a Radio 24, benvenuta ad Anita Torti, benvenuta. Salve. Avvocato, boxer italiana, quindi pugile italiano, nata in Madagascar da padre di Pavia e mamma del Madagascar, è così? Madagascar. Sì, esatto. Quindi, proprio negli anni in cui usciva quel film, mio padre sposava con mia madre in Madagascar. Ed erano gli anni, insomma, in cui in Italia ancora non c'erano molte persone straniere. Quando è che vi siete trasferiti in Italia? Appena dopo la mia nascita, quindi siamo intorno agli anni 70. Quindi noi siamo del nord del Madagascar e proprio sulla costa. Quindi proprio una zona paradisiaca. Mare, foreste. Lei è una, oltre che un avvocato civilista che lavora a Milano, è una delle tre donne professioniste della box italiana categoria leggeri, è così? Sì. Un'italiana che si sta facendo onore in Italia e anche all'estero. Un mese fa, infatti, in Belgio ha combattuto per il titolo mondiale. Sì, siamo andati in Belgio, ho avuto questa opportunità, purtroppo non ho vinto per 6 punti, però ci sarà un'altra occasione. Ci sarà un altro incontro, mi pare, l'8 marzo, proprio l'8 marzo, il giorno delle donne. Sì, l'8 marzo, il giorno delle donne. Ho insistito molto se riuscivo a combattere l'8 marzo, proprio perché è il giorno delle donne. Non ci sarà nessun titolo in palio, però è uno di quegli incontri che mi permette di scalare la classifica per poter sfidare la futura campionessa del mondo, quindi. Mettiamo giù i guantoni per un attimo perché ci deve raccontare che cosa ci cucina stasera. Guardi, io stasera le cucino del pollo al cocco, che è uno dei miei piatti preferiti. E a differenza di come sembra, non è dolcissimo. Infatti il sapore del cocco viene un po' camuffato da questa salsina con del pomodoro e un po' di cipolle. Ed è chiaramente un piatto del Madagascar. Un piatto del Madagascar che mia madre mi faceva quando ero piccola e ogni tanto la richiesta si cimenta anche oggi. E poi c'è un altro piatto, no? Questa volta a base di pesce. Del pesce che si chiama tilapia, che viene cucinato con una salsina fatta di foglie di manioca ben cotte, con anche qui mettiamo del latte di cocco per insaporire. Mi pare di capire che il latte di cocco sia molto presente nella cucina del Madagascar. Sì, cocchi ovunque. Cocchi ovunque. Tilapia è un pesce un po' particolare, degli abissi se non sbaglio. Sì, è un pesce un po' particolare, è un po' grassa come carne, ha dei belli spinoni, però è saporito, molto buono. Mi dicono che si può sostituire anche con altri pesci, poi lo daremo la ricetta alla fine con altro pesce bianco come il pangasio o altri pesci. Sono due ricette che arrivano dalla sua infanzia, come diceva le cucinava la mamma, se non sbaglio. Sì, sì, me le cucinava mia mamma e tuttora. Il tutto viene sempre accompagnato con delle ciotoline di riso in bianco che viene utilizzato al posto del pane, piuttosto che con della manioca o arrostita o bollita. Che cos'è la manioca per chi non fosse esperto? È un tubero, è tipo una patata, però ha un sapore un po' più dolciastro. E questi ingredienti si trovano in Italia? E in Italia sì, cominciano ormai a trovarsi. Mia madre mi ricordo che faceva fatica a trovarli qualche anno fa, adesso con il mercato orientale, i cinesi, cominciano a importarli, si trovano nei supermercati orientali. E poi ci sono anche delle zone in cui ci sono proprio dei supermercati di africani e che quindi importano queste cose. Insomma, lei che è un pugile, è stata allevata a latte di cocco e manioca, è una dieta zenzero, adatta, diciamo, per allenarsi. E zenzero, che diceva mia mamma di tagliarlo bello grosso, perché non volevo che mi finisse fra i denti, però era sempre messo da tutte le parti. Lo zenzero dovunque, adesso zenzero. Si trova un po' di più. Immagino che quando i suoi genitori sono arrivati in Italia, sua mamma in particolare, avesse, come diceva, difficoltà a trovare questi ingredienti. E fosse anche grande la nostalgia per i gusti, gli odori, i profumi del Madagascar. Sì, sì, sì. Sì. Cosa raccontava la mamma? Guardi, più che la mamma, i sapori e i gusti, che probabilmente mia madre viveva un po' più con nostalgia, quindi se lo teneva dentro di sé. Una cosa che invece mi ha sempre fatto specie è mio fratello, che è più grande di me, di 8 anni, e lui del Madagascar si ricordava proprio questi gusti, questi sapori esotici. Lei invece era molto piccola quando siete arrivati. E io ho appena nata, siamo nati là per farci vedere dai nostri nonni, e poi appena sono diventata, entro l'anno siamo venuti in Italia. E quindi ricorda poco, ma è tornata in Madagascar? Sono tornata io solo una volta, mentre i miei genitori andavano avanti e indietro un po' più spesso. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Insomma, mi ha fatto molto sorridere che quando le ho chiesto di indicarmi una canzone, una musica da mettere in trasmissione che le ricordasse qualcosa, mi abbia indicato Elvis. Adesso vorrei che ce la spiegasse lei perché. Ma perché quando io, una bambina curiosa, chiedevo a mia mamma che musica ascoltassero in Madagascar, lei mi diceva che le piaceva molto Elvis e che si metteva a ballare Elvis con le sue amiche, le sue compagne di classe. E io immaginavo questa scena di mia mamma con le sue amiche che in mezzo alla foresta, perché comunque vivevano nella foresta, che ballavano Elvis, e quindi mi è rimasto impresso questa cosa. Step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do, but not honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Era una musica tipica, insomma, degli anni 60, sicuramente anche in Madagascar è arrivato, è penetrato, certo. E quindi queste ragazze così in queste foreste, lei si immaginava, ballavano, e probabilmente era proprio così, ballavano queste musiche un po' come si faceva in Italia. Diceva che era molto piccola, poi è tornata in Madagascar. È cambiato molto questo paese in questi anni? E è stato teatro di guerre civili, e sì, mia madre ha detto che è cambiato molto, ma si sta riprendendo, perché è stato colonia francese fino agli anni 70, e dopo, lasciati al proprio governo, si sono un po' distrutti, però sta migliorando pian piano. Lei ha in mente il suo fratello, avete in mente casomai di tornare prima o poi, oppure vi sentite totalmente italiani? No, cioè, sentiamo molto italiani, però non abbiamo mai tralasciato questo nostro lato del Madagascar. e abbiamo lottato per tenere le terre che mia madre aveva lasciato lì, siamo riusciti a tenerle, quindi l'obiettivo sarà quello di andarla, anche perché sono terre magari sulla spiaggia piuttosto che coltivazioni di vaniglia, e quindi adesso che sono nostri definitivamente, che li abbiamo salvati, torneremo là. E la lingua locale la parlate ancora? Sì, ci sono vari dialetti, nel nord hanno il loro dialetto, nel sud ne hanno altro, in centro un altro ancora. E praticamente ogni razza ha il suo dialetto, che però fa una lingua che è la lingua del malgascio, e tutti parlano anche il francese. Ogni anno milioni di animali migrano verso casa, ma alcuni lo fanno meglio di altri. Un momento, non è New York. Come? Ho detto un momento, non è New York. Come faremo ad attraversare l'Europa senza dare nell'occhio? Come? Attenzione, abbiamo individuato degli animali a piede libero! Chiamate il capitano Dubois degli accalappiatori! Poveri animali, avrete a che fare con me. Gli sbirri! Ora che facciamo? Non possiamo mimetizzarci, non siamo in Africa! Fate cercare! Vai, andiamo! Grazie, scenderemo alla prossima fermata e torneremo in America. Anche noi siamo diretti in America! Cosa? Possiamo venire con voi! Wow! Questo treno è solo per animali di circo. Ma noi siamo di circo! Che numero fate? Circo! Afro! Con i pua, afro! Sicuri? Quest'anno, per poter tornare a casa, ci inventeremo qualcosa che lascerà tutti a bocca aperta! No! Faranno qualunque cosa per tornare a casa. Attenti al botto! Quello da solo valeva il prezzo del biglietto. Allora, questo era il trailer di un cartone animato che si chiama Madagascar. In effetti Madagascar è quasi famoso in Italia, quasi esclusivamente negli ultimi anni per questo film. Lo conosco benissimo perché io una volta al mese vado a farmi le treccine da una ragazza del Camerun, la quale ha due bambine. E visto che fare le treccine dura tipo 7 ore, devo star seduta 7 ore, quando è uscito Madagascar, questo cartone animato, una di queste bambine, a quale piaceva molto questo cartone, l'ha messo su e io ho visto questo cartone animato, diciamo, 6 volte in una giornata, quindi lo so praticamente a memoria. It's like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born apart. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing what I'm doing, y'all. I like the moving, I like the moving, I like the moving, we like the moving. I like the moving, she like the moving, he like the moving, we like the moving. I like the body, he like the body, they like the body, we like the body. She like to shake it, she like to shake it, he like to shake it, yeah. Somebody say yeah. È un'immagine quella del cartone animato Madagascar, ovviamente per i bambini, molto, molto leggera, molto curiosa e simpatica. Non le fa un po' strano che l'immagine che abbiamo noi del suo paese, del paese d'origine di sua mamma, in realtà sia così portata a noi da questo cartone animato? Lo trovo molto simpatico e positivo soprattutto per i bambini, perché è un bel cartone. E rispecchia un po'... c'è anche questo messaggio, rispecchia anche un po' la natura, così la natura, sì, incontaminata, sì, del paese. prettamente per i lemuri, perché vivono solamente in Madagascar, come tante altre specie che vivono solo lì. E sono molto presenti, no? Credo ancora in natura, sì, i lemuri. Sì, ci sono ovunque. Mi ricordo che mio padre mi diceva che li avevano nel giardino, i lemuri. Hard, just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we born, no. We party cause we born apart. E rientriamo sulla musica ancora una volta del cartone animato Madagascar. Stiamo parlando con Anita Torti, pugile, avvocato italiano di origine in parte del Madagascar, perché la mamma proviene da questo paese e lei e la famiglia hanno vissuto lì. Anita, diceva queste treccine rasta, perché lei ha i capelli ricci, è un omaggio un po' alla terra della sua mamma, se capisco bene. Sì, ho i capelli ricci, è un omaggio faticoso della terra di mia mamma, sì. Faticoso perché appunto diceva sessioni da 7 ore per fare queste treccine. Sì, perché è l'unica soluzione, o corti o treccine. Anche una soluzione abbastanza comoda, immagino, per allenarsi, per combattere. Sì, soprattutto per quello, guardo quello, sì. Cosa dicevano e dicono in famiglia della sua passione per la boxe? Ma guardi, io a mia madre cerco di dirlo il meno possibile, ormai mi ha scoperto, quindi... Beh, anche perché non può tenerlo nascosto visto che fa questi incontri a livello mondiale. Appunto, è vero. Quindi all'inizio lo teneva nascosto? Sì, perché ha paura, un po' l'ansia, non vuole che mi faccia male, non vuole che ci tiene al mio naso. Dice che ha fatto tanta fatica a farmi crescere bella e solare e sana, che io poi vado a distruggermi. Quindi io dico poche volte, io dico dopo. Quando ha iniziato ad allenarsi, a combattere? La bocca. Ho cominciato a farla nel 2009, non da tanto, nel 2009, perché prima ho studiato, ho sempre fatto arti marziali a livello amatoriale. Poi nel 2009 mi sono posta l'obiettivo di raggiungere qualcosa di importante. E nel frattempo ha studiato, diceva, ha studiato legge? Ho fatto la mia pratica, la facchinata di pratica d'avvocato. Poi appena mi sono tranquillizzata un po' mi sono buttata anche nella box, anche perché la vita troppo sedentaria non fa per me, ho bisogno di valvole di sfogo. Adesso le facciamo sentire un altro audio. Signor Dan, ti devo dei soldi? No, signore. Conosco tua madre. Le potrebbe interessare allenarmi? Non alleno donne. Chi mi ha visto combattere dice che ho grinta. Ragazzina, sappi che avere grinta non basta. Dietro la fatica c'è la magia di combattere una battaglia. La magia di rischiare tutto per un sogno che nessun altro vede tranne te. Se accetto di allenarti. Lo prometto, lavorerò sodo. Non farmi domande e io cercherò di dimenticare il fatto che sei una donna. Qual è la regola? Devo proteggermi in ogni momento. Bene. Trovati un uomo e sposalo. La gente ha saputo quello che fai. E ti ridono tutti dietro. Non ho nessuno tranne te, Frankie. Io ci sono almeno. Ho fatto molti errori nella mia vita. E sto cercando di evitare che tu faccia come me. Lo so, capo. Hai accanto un uomo in gamba. Sì, è vero. Ehi, dai, sta giù. Lo sai quanti anni ho? Io voglio solo tenerla con me. No, tu stai cercando di evitare di vincere il titolo. Frankie viene in chiesa quasi tutti i giorni da 23 anni. Solamente una persona che non riesce a perdonarsi qualcosa lo farebbe così spesso. Hai un incontro di cui non so niente. Mi lascerai? Mai. Questo è che chiaramente l'avrete riconosciuto il trailer di Million Dollar Baby, un film del 2005 con il quale sono stati vinti 4 premi Oscar, un film di Clint Eastwood, un film anche abbastanza triste però che ha portato al grande pubblico anche la storia di una donna pugile, Anita. Sì, sì. sì, infatti fino a un certo punto mi trovo rispecchiata in quel film, poi spero proprio di no, sinceramente. Beh, chiaro, è un film con un finale assai triste. Mamma mia. Però si parla chiaramente anche della box e della difficoltà per una donna di intraprendere una carriera in questo settore. C'è una donna, una amica che dice trovati un uomo e sposati, no? Nel trailer. Sì. Che è quello che le avranno detto spesso. Sia per quel tema che per il fatto che il mio maestro all'inizio non voleva allenarmi perché era una donna. Allora ho dovuto dimostrargli che anche noi donne possiamo fare pugilato, un bel pugilato. Lei si era rivolta a questo maestro di pugilato Amadori, no? Sì, Amadori Garcia, che è, secondo me è uno dei migliori allenatori in Italia, Milano sicuramente. E appunto all'inizio non voleva allenarmi, comunque aveva delle riserve nel vedere una donna che faceva pugilato, lui per primo, quindi si figuri, convincere lui, per poi convincere tutto il resto del mondo. E invece poi gliel'ho dimostrato col sudore, impegnandomi, che anche noi donne possiamo fare della buona box. Prima volta che hai indossato in guantoni, dove è stato? Non in Italia? No, il pugilato l'ho cominciato a New York, alla Gleason's Gym, che è proprio la palestra che fa riferimento a Million Dollar Baby. Mm. E lì mi sono appassionata, ho visto che ero a livelli alti e allora quando sono tornata in Italia ho continuato. E per diventare professionista ha dovuto passare anche da altri paesi? Sì, perché in Italia un po' perché non avevo incontri da dilettante, un po' perché avevo superato l'età per potermi tesserare con la federazione italiana, non mi facevano tesserare in Italia, allora io, perché comunque volevo farlo, quindi un modo l'avrei trovato per farlo, e mi sono tesserata in Kosovo e dopo 3 o 4 match poi sono che ho fatto richiesta alla federazione italiana e visto che andavo bene, visto che ormai avevo fatto qualche match, mi hanno accettato la richiesta di affiliazione in Italia. Adesso combatto per l'Italia. Dove vuole arrivare? Titolo mondiale. Devo vincere il titolo mondiale. Se c'è una magia nella box, è la magia di combattere battaglie al di là di ogni sopportazione, al di là di costole incrinate, reni fatti a pezzi e retine distaccate. È la magia di rischiare tutto per un sogno che nessuno vede tranne te. Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario. Dove ti abbassare? Devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua. Così. Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. E come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare e fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta, e ancora, e ancora, e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni. Non abbandonare comunque la sua professione di avvocato, ma continuare in maniera professionale a combattere. Sì, perché è la mia passione è questo, il mio lavoro è un altro. Per l'Italia, chiaramente. Sì, io sono italiana, papà italiano, sì, sì. Italiana con radici altrove che si sta facendo onore sui ring di tutto il mondo e le auguriamo il meglio. Intanto riepiloghiamo prima di chiudere le ricette di oggi. Pollo al cocco. Ingredienti per due porzioni. 400 g di petto di pollo, mezza lattina di latte di cocco, un cucchiaio di pasta di curry, farina di riso, 3 cucchiai di olio di semi, sale quanto basta, mezzo limone. Tagliare il petto di pollo a dadini non troppo piccoli. Versare la farina in una ciotola e condirla con del sale. Quindi prendere i petti di pollo e passarli nella farina coprendoli del tutto. Versare l'olio in una padella antiaderente o wok e farlo riscaldare. Adagiare piano il petto di pollo e farlo rosolare per bene senza farlo bruciare, aggiungendo il succo di limone per far caramellare. Una volta rosolato, versate il latte di cocco e cuocete a fiamma media fino a quando il latte non inizia a ritirarsi e a formare una cremina omogenea. Quando il latte ha formato la crema, versare la pasta di curry nella padella e mescolare energicamente in modo che le due creme si amalgamino per bene. Togliere dal fuoco, prima che la crema si secchi, e servire immediatamente con del riso bianco. Spruzzare altro succo di limone a piacere. Tilapia in salsa di foglie di manioca, insaporite dal latte di cocco. Ingredienti: 1,5 kg di filetti di pesce bianco. Tilapia, un pesce tipico dei fondali marini del Madagascar, ma può andare bene anche il pesce persico o il pangasio. Una tazza di marinatura jerk, una tazza di riso al gelsomino, una tazza di latte di cocco, una tazza di acqua, una banana e salsa di ananas. Marinare i filetti di pesce per almeno 2 ore in un sacchetto a chiusura e metterli in frigo. Portare il latte di cocco, il riso e l'acqua a ebollizione. Ridurre la temperatura a medio-bassa, coprire e lasciar cuocere a fuoco lento per 20 minuti, fino a quando il riso è cotto e il liquido è stato assorbito. Nel frattempo, mettere il pesce e la marinata in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 150 gradi fino a cottura, circa 15 o 20 minuti. Servire il pesce sul riso di cocco e coprire con la banana e la salsa di ananas. La puntata termina qui, io ringrazio la nostra ospite Anita Torti, avvocato e pugile italiano, in regia Fabio Cantadori. Mi trovate anche su Twitter, @valfurla. Trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet rinnovato di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.